Allora, buonasera e buon ascolto, ben trovati e ben trovate. Speriamo appunto che siate ancora all'ascolto di questa trasmissione. E senza raccontarvi come abbiamo pensato di strutturarla quest'anno, entriamo subito in argomento perché è il momento di parlare già da tempo, ma insomma è assolutamente necessario parlare dei movimenti per l'acqua pubblica, anche perché sabato scorso c'è stata una manifestazione nazionale e quindi ci sono qui due compagni che sono appunto all'interno di questi comitati e do subito a loro la parola. Sì, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate dopo appunto il passaggio estivo, la pausa estiva. E oggi sì, riparleremo di nuovo di acqua pubblica, in particolare delle mobilitazioni che il Movimento per l'Acqua sta mettendo in campo e ha programmato di mettere in campo in questi giorni in particolare. E è importante appunto magari fare un piccolo punto della situazione rispetto a dove siamo arrivati. Ad oggi ci siamo lasciati con la consegna delle firme per i tre referendum appunto per l'acqua pubblica il 19 di luglio. Ben 1.400.000 persone hanno sottoscritto per ciascun quesito e siamo in attesa del responso della Corte di Cassazione che deve valutare appunto il numero delle firme necessarie per la richiesta di referendum e poi passerà la palla alla Corte Costituzionale che invece valuterà l'ammissibilità appunto costituzionale di questi tre quesiti. E poi, se diciamo Dio vuole, riusciremo ad arrivare al voto nella prossima primavera. Intanto i movimenti per l'acqua hanno deciso di scendere in campo e di mobilitarsi proprio per portare avanti alcune richieste. E il 4 dicembre è stata, diciamo, fissata questa giornata di mobilitazione nazionale, dove sono state appunto organizzate iniziative in diverse regioni, direi anzi in tutte le regioni d'Italia. E con, diciamo, due parole d'ordine fondamentali: moratoria subito, quindi moratoria, e diritto al voto nel 2011. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, come abbiamo detto più volte a questa trasmissione, il decreto Ronchi, ossia l'ultima legge che privatizzerà definitivamente l'acqua, pone delle scadenze che sono il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2011. Momento in cui, diciamo, dovranno essere cedute al privato, messe sul mercato il 40% delle azioni delle società ancora a totale capitale pubblico e quindi si darà avvio, e anzi si concluderà quel processo di privatizzazione che appunto è iniziato in Italia ormai da quasi più di un decennio. E quindi noi che cosa chiediamo? Che fino all'indizione del referendum, ci sia una moratoria su queste scadenze del decreto Ronchi, proprio perché crediamo che sia una questione di democrazia attendere che i cittadini e le cittadine si possano esprimere liberamente su questo tema così importante, senza per così dire che i buoi già siano usciti dalla stalla, ossia che i privati abbiano fatto già l'ingresso totale in tutte le società gestrici del servizio idrico. E quindi la moratoria è un provvedimento che chiediamo al governo, se un governo ancora c'è in Italia, questo forse lo scopriremo a breve, il 14, però comunque è una richiesta forte che è arrivata appunto il 4 da tutte le piazze d'Italia, da tantissime piazze e da tantissime città di tutta Italia. E poi chiediamo che, nonostante appunto ci sia questa incertezza sulla tenuta del governo e quindi la possibilità che si vada a elezioni anticipate, che comunque il voto si tenga nel 2011, perché pure qui la legge sui referendum prevede che in caso di scioglimento anticipato delle Camere si debba, diciamo, far slittare il referendum all'anno successivo e quindi in teoria si dovrebbe andare a votare non prima della primavera del 2011, del 2012, nel caso in cui appunto si scioglie sciolgano le Camere. Quello che chiediamo anche qui è che comunque si voti nel 2011, al più tardi nell'autunno, e che quindi si faccia un provvedimento, si approvi un provvedimento di deroga a questa legge sul referendum, perché anche qui c'è una questione assolutamente di democrazia che deve, diciamo, rispettare quella che è la volontà dei cittadini, che si sono espressi con tanta forza sottoscrivendo i tre quesiti. Ecco, sottolineiamo una cosa, che non si tratta quindi di un limite costituzionale, il fatto che se si sciolgono le Camere il referendum va a finire l'anno dopo. No, no, è una legge, è la legge del 70 che prevede, diciamo, questo slittamento all'anno successivo. È perché, diciamo, a quanto si è capito, un nuovo governo non si debba trovare in una situazione un po', diciamo così, di rischio di fronte a un referendum che lo potrebbe mettere già in crisi. Quindi è una questione di opportunità politica che si sono dati. Ci sono dei precedenti, situazioni analoghe in cui è stata concessa la deroga? Sì, c'è un precedente illustre, che è quello del referendum sul nucleare dell'87, che appunto si tenne nello stesso anno della caduta del secondo governo Craxi, e per cui nell'agosto dello stesso anno si fece appunto un provvedimento, un decreto in fretta e furia di deroga alla legge, e i referendum vennero indetti per il 6 e il 7 novembre. Quindi, diciamo, c'è la possibilità se c'è volontà politica. Esatto, infatti stavo per chiederti proprio questo, forse in quell'occasione c'era la sponda politica di qualcuno, viceversa in questa? Ad oggi, diciamo, che non c'è una forte, diciamo, rappresentanza a livello parlamentare che possa, diciamo, farsi carico di queste richieste. Per questo anche la scelta che è stata fatta anche dai Movimenti per l'Acqua è quella di una mobilitazione forte nei territori e sulle piazze per chiedere appunto che questo provvedimento venga approvato. Contemporaneamente, ovviamente, sono state fatte richieste di incontro a tutti, diciamo, i capigruppo parlamentari, a tutte le personalità, diciamo, del governo, anche alle varie associazioni degli enti locali. 10 giorni fa abbiamo incontrato proprio l'ANCI su questo tema, che comunque, diciamo, porterà all'interno del direttivo della propria associazione la nostra richiesta, e stiamo attendendo che, diciamo, le forze politiche ci rispondano, ma, diciamo, forse sono affaccendate in altre faccende, visto che appunto c'è una crisi abbastanza imminente, e quindi questo è un po' il pericolo, diciamo, dell'approvazione di questa norma. E questo, diciamo, che erano i temi al centro della mobilitazione. Ora magari passo la parola a Luca, che ci racconta un po' come, sì, 5 minuti, e ci racconta un po' come sono andate queste praticamente più di 20 piazze in Italia dove si sono tenute queste mobilitazioni, anche in modo abbastanza originale. Ciao a tutti e a tutti innanzitutto, e c'è da dire che, nonostante i media tradizionali non ci supportino più di tanto, in quanto anche la mobilitazione del 4 è stata rilanciata solo da, diciamo, radio indipendenti, blog e poco più, si è avuta una bella risposta da parte della gente, segno che sia il movimento, quello che ha fatto fino ad oggi, ha lasciato il segno, sia che nei territori la mobilitazione, anche con vertenze territoriali eccetera, è ancora alta. Quindi c'è un'ottima risposta di persone, nonostante diciamo che su Repubblica, sul Corriere o sul TG1 noi non passiamo praticamente mai. Una mobilitazione generalizzata che ha visto concerti, happening, cortei, marce, ritrovi in piazza, spettacoli e quant'altro. Per fare un excursus nella penisola, partendo dal sud, possiamo ricordare come un bel corteo colorato in Calabria, Cosenza, abbia animato il centro della città, come 3-4 mila persone a Napoli abbiano marciato anche lì in centro, come in Puglia in tutte le province ci siano stati banchetti informativi e comunque movimenti attivi, come in Abruzzo a Pescara è stata addirittura organizzata una street parade per dare per fare diciamo qualcosa di un pochino diverso dal resto d'Italia, come quella che abbiamo visto più da vicino a Roma in Piazza Santi Apostoli dalle 11 di mattina fino a notte, perché alle 6 di pomeriggio adesso è notte, la piazza di Santi Apostoli, che di solito è un pochino un luogo un po' azzimato, è un pochino diciamo un po' chic, elegante, sia diventata una sorta di festa popolare con la Murga che ha dato spettacolo, con Ulderico Pesce che ha fatto il suo spettacolo anche lui, con altre iniziative, con torte fatte in casa distribuite in piazza. E, salendo ancora un pochino più a nord, in Toscana c'è stato, ce lo racconterà tra un po' Luciano in collegamento, un bel corteo in mezzo ai turisti a Firenze con la banda O che apriva diciamo tra la curiosità di bancarelle e giapponesi, e a Bologna, dove c'è stato forse il corteo più grande organizzato nel paese, dove al corteo dell'acqua si è unito quello degli studenti. Erano due cortei distinti, a un certo punto si sono uniti e hanno fatto queste 5.000 persone che hanno sfilato nel centro di Bologna con gli striscioni a favore dell'acqua pubblica in testa. E per finire possiamo ricordare Torino, dove anche c'è stata una bella manifestazione in centro, Venezia, dove la mattina c'è stata una gondolata, che era qualche barca che si è avventurata per i canali di Venezia con gli striscioni pro acqua pubblica, e in Trentino Alto Adige, a Trento, dove una fiaccolata ha sfilato le vie della città in mezzo alla neve. Potrete vedere da domani video, filmati, foto di tutti gli eventi sul nostro sito, che è acquabenecomune.org. Bene, allora facciamo una prima pausa musicale. Questi sono i Baschi di Banda Batoxi, e dopo ci risentiamo ovviamente sui 87.9 di Onda Russa. E ritorniamo in diretta, abbiamo una corrispondenza sempre da Onda Rossa, Entropia Massima. E c'è Luciano D'Antonio da Firenze, dal Movimento Fiorentino. Ciao Luciano. Salve a tutti, buonasera. Luciano, ci potresti fare, prima di parlare delle mobilitazioni diciamo di questi giorni e di sabato, un breve riassunto di qual è la situazione nella prima delle regioni che hanno privatizzato, cioè la Toscana? Ormai la Toscana incomincia ad avere troppi primati, questo certamente è quello che ci piace meno con la prima privatizzazione in Italia con Arezzo, ma diciamo quello che sta succedendo in Toscana è un po' anche quello che è successo sabato 4, nel senso eravamo sotto la sede della regione toscana, perché la regione toscana, così come la Lombardia di Formigoni, sta producendo quello che noi come slogan abbiamo detto: noi il podestà per la gestione dell'acqua e dei rifiuti, il commissario speciale con tutti i poteri e i sindaci che avranno solo potere consultivo, non ci stiamo, e in prospettiva questa è l'anticamera per consegnare tutta l'acqua della Toscana alla gestione dei Suez, Cartagirone, Acea e così via. Logicamente noi in questi anni coi cittadini abbiamo raccolto migliaia di firme, non solo per il referendum ma anche per le leggi di iniziativa popolare, e questa cosa non vogliamo che si realizzi. Abbiamo detto no in Lombardia sotto al Pirellone a Formigoni, non facciamo sconti in Toscana. Sì, perché se da una parte la Toscana ha il primato delle privatizzazioni, diciamo anche un piccolo privato dell'attivismo, com'è andata questa settimana di mobilitazioni? So che ma ci sono diciamo state... che noi siamo partiti da Firenze dal 18 e 19 settembre, quando c'è stato praticamente l'appuntamento nazionale dei comitati referendari, e da lì ci siamo già messi a preparare il 4 dicembre. Abbiamo deciso, visto anche che i territori, i comitati provinciali, i referendari sono veramente esplosi e hanno permesso anche un dato di raccolta firme che ci ha soddisfatto molto. Avevamo 45.000 come obiettivo, abbiamo portato a Roma dalla Toscana 107.000 firme, che è il 237% dell'obiettivo, e i comitati provinciali hanno avuto tutta una settimana di mobilitazioni che ci hanno portato fino al 4, e veramente nei territori ci sono stati una grande inclusione, un grande protagonismo di tante reti, compresi gli universitari, che hanno fatto un gran bel lavoro all'interno dell'università incrociando la battaglia per il diritto allo studio e i beni comuni quale l'acqua. E poi abbiamo avuto tante iniziative culturali, presentazioni di libri come l'ultimo di Emilio Molinari nel Pistoiese in particolare, poi abbiamo avuto giovani che hanno fatto iniziative mediaticamente appetibili a Massa Carrara, insomma diciamo è veramente stata un'esplosione fino ad arrivare al 4, che un po' le gambe ci tremavano, sia perché le previsioni del tempo ci hanno messo allarme fino all'ultimo minuto, e poi invece il tempo ci ha graziato, e poi perché dobbiamo dire che era la vera prima prova del movimento, che invece della scommessa della manifestazione nazionale, che insomma ci ha dato un po' di tranquillità con quella precedente marcia con 200.000 militanti in piazza, la Toscana, cioè quelle regionali, era una prima prova, e diciamo che in Toscana siamo rimasti molto contenti. E poi grazie anche all'happening della Bandau, 40 percussionisti straordinari, è diventato un coinvolgimento per le vie principali del centro storico, dal Duomo a Piazza Signoria, è veramente stato un trasferimento, che voglio dire, di entusiasmo, fino ad arrivare alle persone che ci hanno preso i volantini da mano e hanno detto se potevano dare mano a volantinare, quindi un consenso. Abbiamo sentito praticamente una forte disponibilità e un apprezzamento per quello che stavamo facendo. Luciano, noi sappiamo che tu, oltre a essere un validissimo referente territoriale, sei anche un lavoratore di Publiacqua, che è l'azienda diciamo fiorentina della gestione del servizio idrico, e sappiamo anche che in questa azienda c'è stata una discreta mobilitazione anche a partire dall'interno. Ci puoi raccontare qualcosa? Allora, è validissimo, non ci siamo messi d'accordo, quindi lo leverei, sono un referente, va bene più così, ed è vero che sono un lavoratore del settore idrico, dell'azienda Publiacqua, che diciamo è un po' la più grande della Toscana, che serve Firenze, Prato e Pistoia. La sedimentazione fra i lavoratori viene da lontano, già dalla prima legge di iniziativa popolare regionale, perché la Toscana è stata anche laboratorio per questo, per poi aprire il fronte per una legge iniziativa popolare nazionale. Allora su 600 lavoratori riuscimmo a far firmare e a condividere a 400 lavoratori la legge iniziativa per la ripubblicizzazione in Toscana. È un cammino lungo che abbiamo fatto, e non a caso ad aprire il corteo le 5 persone di testa che hanno aperto il corteo, 3 erano lavoratori del settore idrico che ci hanno messo la faccia. Una cosa la vogliamo dire anche nella civile toscana e anche chi vi parla, ma non vorrei andare oltre su questa cosa per non fare del vittimismo. Qualcuno pensa che la democrazia si deve firmare fuori dai cancelli. Noi, a differenza di chi sta fuori, quando torniamo dentro queste cose ce le fanno pagare, perché vorrebbero più dei lavoratori addomesticati al business e al 31-12 agli utili e dividendo, e non lavoratori che sono vicini ai cittadini per il sacrosanto diritto all'acqua. Senti, una domanda. Recentemente c'è stata questa sentenza della Corte Costituzionale che ha dato torto ai ricorsi presentati da alcune regioni. Siccome le valutazioni, leggevo un po' in giro su alcuni giornali, sono ambivalenti, no? C'è chi ha detto è stata una mazzata, chi ha detto no, beh, in effetti forse addirittura positivo questa cosa rispetto al referendum, che quindi non c'è l'ostacolo delle regioni. Cosa se ne è discusso? Allora, vogliamo essere schietti, tu stai parlando con una persona che è referente, ma è un ottimo montatore di gazebo, sa far partire gruppi elettrogeni, è un pessimo costituzionalista. Logicamente io mi appassiono a queste cose, ma ne parlo non da persona titolata in termini giuridici e così via. Io sinceramente sono rimasto molto impressionato dell'articolo di Rodotà e dei giuristi che stanno supportando il movimento, dove quella sentenza, logicamente viene letta con gli occhi delle loro competenze, praticamente ci danno degli elementi di tranquillità rispetto a quello che deve essere logicamente il lavoro sereno e libero e indipendente che dovrà fare la Corte Costituzionale. E da questo punto di vista quella sentenza, rispetto magari ai primi impatti che abbiamo potuto avere noi persone non addetti ai lavori, mi sembra che dai commenti di persone autorevoli, fra l'altro sensibili e vicini al movimento, le cose siano un po' meno preoccupanti di quello che ci si poteva aspettare. Quindi da questo punto di vista io penso che questo popolo in cammino e che non si ferma, il 2011 alle urne ci vorrà andare, e noi ci auguriamo che gli organismi istituzionali abbiano la serenità di dare questa possibilità al popolo italiano di esprimersi. No, allora Luciano, un'ultima cosa che non riguarda temi giuridici o costituzionali, ma che riguarda una cosa un po' più terra terra, ossia le fogne di Firenze. Più acqua. dalle stelle alle stalle, C'è questa questione del famoso fognone a Firenze che appassiona in pochi, però appassiona, perché pare incredibile, ma sembra che ancora ad oggi tutta la sponda destra dell'Arno fiorentino non sia allacciata alla fogna. No, allora è la sinistra ed equivale a 160.000 abitanti equivalenti. Noi negli spogliatoi tra lavoratori avete mai visto un Tuareg nel deserto fare i propri bisogni nell'ultima borraccia d'acqua? Anche perché l'Arno e la fonda è fondamentale per approvvigionare l'acquedotto e dare l'acqua potabile ai cittadini di Firenze in parte di Prato e di Pistoia. Publiacqua è nata nel 2002-2003, fra le sue prime missioni aveva proprio quella di mettere fine alla vergogna del centro-nord, della città che ha l'Arno che va nelle cartoline di tutto il mondo, di non essere assolutamente depurata. È partita questa azienda SPA al 100% di capitale pubblico inizialmente, e la parte destra, quella che appunto si chiama emissario destro, è stato realizzato, e tutti quelli che stanno sulla parte destra riescono a portare a depurazione, a fognatura e depurazione i propri scarichi fecali, mentre invece nel momento in cui puntualmente è arrivato il socio privato, l'accordata Acea, Suez, Caltagirone e Company, quest'opera è stata bloccata nonostante ci fossero già oltre 30 milioni pagati in bolletta dei cittadini secondo i piani di investimento, vi erano soldi finanziati pubblici perché rientrava in un accordo Stato-Regione, e quest'opera è stata bloccata soltanto in queste ultime settimane, dopo che c'è stata anche uno scoop scandalistico del Corriere della Sera. questo già un paio d'anni fa, dove sono state rese pubbliche delle comunicazioni ufficiali protocollate tra il gestore e l'ATO, dove praticamente l'ATO diceva: voi siete pazzi a sospendere questa operazione solo rispetto a un discorso finanziario. Poi sono uscite fuori bonifiche, errori progettuali, e poi c'è una novità forte che ha creato una discussione fortissima negli ultimi mesi qui a Firenze, che quest'opera dai 35 milioni iniziali, questa parte dell'emissario sinistro, si è arrivati a 70 milioni, e questo probabilmente sarà una cifra che andrà a pesare quasi totalmente nelle bollette dei cittadini del lato 3 di Publiacqua, e quindi di Firenze, Prato e Pistoia. Va bene, terremo gli occhi puntati su questa situazione, perché sembra veramente emblematica rispetto a quello che vuol dire la privatizzazione in Italia, ossia appunto l'assenza o il crollo degli investimenti nel momento in cui subentra. Comunque, se volete venirci a liberare dalla parte di Cecina, il versante aperto da mare, potete venirci a invadere, veniteci a liberare. va bene, ci proveremo. Va bene, grazie, buon mille, lavoro a tutti, Luciano, grazie e sempre. A presto. Arrivederci, ragazzi. E allora magari adesso ci rifermiamo, sì, per altri due minuti di pausa, e poi proseguiremo continuando a parlare sempre della qualità dell'acqua, ma più vicino a Roma, nella zona di Castelli Romani, questa cosa molto preoccupante, notizia molto preoccupante dell'acqua all'arsenico sui castelli. Ascoltiamo i Cream. Thinking about the times you drove in my car, thinking that I might have drove you too far. And I'm thinking about the love that you laid on my table. I told you to wander around in the dark, I told you about the swans that they live in the park. Then I told you about our kid, now he's married to Mabel. Ancora in diretta Onda Rossa 87.9, entropia massima. Sì, appunto, come dicevo prima, affrontiamo questo problema, che è un problema veramente scottante, perché riguarda non solo la qualità dell'acqua ma anche la salute delle persone. Perché appunto è scoppiato il caso arsenico non solo a Velletri, di cui adesso parleremo con Mirella appunto del Comitato Acqua Pubblica di Velletri, ma in 128 comuni d'Italia, dove si è venuto a scoprire che appunto l'acqua potabile, l'acqua del rubinetto, conteneva tenori in arsenico ben superiori e ben oltre i limiti previsti dalla legge, che ricordiamolo sono 10 microgrammi al litro. Lo scandalo è passato alla cronaca come appunto acqua all'arsenico, ma ci sono anche altri elementi, cosiddetti metalli pesanti e quindi estremamente tossici, che erano al di sopra dei limiti dei limiti di legge. A Velletri è una battaglia che il Comitato sta conducendo, diciamo, non da oggi e non da ieri, ma da diverso tempo, questo sulla qualità delle acque, legandolo anche alla questione della privatizzazione, perché va ricordato che anche Velletri dal 2006 o 2007 è passato sotto gestione ACEA, e quindi appunto la nota società misto pubblico privata quotata in borsa, che gestisce anche qui a Roma. Appunto va fatto un discorso rispetto a questo, cioè al fatto che gli acquedotti tra Roma e quello dei Castelli sono distinti, per cui l'acqua che giunge a Roma è un'acqua che proviene dalle montagne dell'Appennino e quindi non ha, diciamo, questo elemento presente, mentre le acque che, ahimè, vengono distribuite nella zona dei Castelli, soprattutto a Velletri, sono acque che provengono da rocce vulcaniche e quindi contengono questo elemento in tenori molto, molto elevati, soprattutto nel momento in cui sono state iper sfruttate le falde del vulcano laziale. E chiederei a Mirella di farci appunto una breve ricognizione, un breve sunto di quelli che sono stati, diciamo, i passaggi e tutte le questioni che si è tenuto ad affrontare, che il Comitato ha dovuto affrontare in questi ultimi mesi. Buonasera, sono Mirella da Velletri. Beh, adesso in questi giorni stiamo ai serbatoi d'acqua nelle contrade, nei quartieri di Velletri. Il sindaco ha emanato un'ordinanza il 26 novembre in cui autorizza il gestore ad erogare acqua con contenuto di arsenico fino a 20 microgrammi, e nei luoghi dove i 20 microgrammi sono superati ha mandato le autobotti con l'acqua potabile, speriamo anzi che lo sia, perché non so bene dove la prendano, con i rubinetti a disposizione delle persone. Questa è la situazione. Quindi il sindaco si è preso la responsabilità di fissare il tetto per la potabilità dell'acqua a 20 microgrammi, contravvenendo a quanto aveva deciso l'Unione Europea il 28 ottobre scorso. Le cose sono andate più o meno così. Le deroghe previste per legge, che fanno salire il tetto massimo di arsenico ammesso nell'acqua a 50 microgrammi litro contro i 10 di base, queste deroghe potevano durare un certo periodo. Ne sono state concesse due dal 2004 dal 2005 al 2010 per 3 anni, e quindi alla fine del 2009, dicembre 2009, scadeva la seconda deroga triennale per quanto riguarda l'arsenico. A quel punto il gestore e la Regione Lazio hanno fatto richiesta alla Comunità Europea, che era tenuta per legge a dare il suo assenso a questa ulteriore deroga. Hanno chiesto, dicevo, ancora una deroga a 50 microgrammi litro di arsenico. Questa volta l'Unione Europea non l'ha concessa. Ha chiesto il supporto di un comitato tecnico scientifico, ha temporeggiato, evidentemente preoccupata della situazione, ma il 28 ottobre ha emanato la nota con la quale, con molta chiarezza, rifiuta la deroga a 50 microgrammi litro dell'arsenico. La conseguenza di questo rifiuto è chiara come il sole. Il limite ritorna ai 10 microgrammi di partenza. Mirella, sì. Giusto per capire di quello che stiamo parlando, che conseguenze ha l'arsenico per la salute? Oh, ecco, c'è da dire innanzitutto questo, che noi parliamo di numeri, ma la cosa sostanziale è una: l'arsenico fa male, fanno male anche i 10 microgrammi, perché l'arsenico è un elemento, un minerale presente nell'acqua, in particolare nelle zone vulcaniche, che ha effetti cancerogeni, è un cancerogeno di classe 1, quindi produce, conclamata il fatto che produca tumori ai polmoni, alla vescica, alla pelle e quant'altro. Ma la cosa grave dell'arsenico è che ha effetti cronici gravi, non è tanto quanto arsenico si beve in un bicchiere d'acqua una volta, è il fatto di quanto se ne beve nel tempo e di quanto se ne assume negli alimenti, perché poi noi non soltanto lo beviamo nell'acqua tutti i giorni, ma chiaramente lo assumiamo attraverso la pasta, la verdura, il pane e tutti gli alimenti che ingeriamo quotidianamente, i quali spesso e volentieri sono fatti con l'acqua, e quindi l'accumulo che se ne fa nell'organismo è chiaramente estremamente pericoloso. Mirella, si accumula attraverso il tempo. Mirella, senti, io ho una domanda per te. Tu poco fa hai detto che anche i 10 microgrammi litro non sono quelli. L'arsenico è una di quelle, non è come il fluoro. Il fluoro è nocivo in certe concentrazioni, però a concentrazioni basse fa pure bene, no? Ecco, per l'arsenico questo discorso non vale. Il nocivo sempre. Ecco, io in genere... Quindi già i 10 microgrammi che erano stati stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come così limite massimo, già vengono messi in discussione da molti studi scientifici. La verità è che l'arsenico non dovrebbe esserci, e l'idea della deroga è un'idea criminale, nel senso che, come dire, dice puoi farti avvelenare, dice ma se ti avveleni un po' di più, insomma, da 10 a 50 oltretutto non è poco. E quindi anche la stessa legge prevede che queste deroghe non possono essere all'infinito, possono essere soltanto limitate nel tempo e a certe condizioni. E le condizioni sono molto chiare. Senti Mirella, in genere quando si parla di acqua pubblica ci si rifà sempre al concetto che in Italia gli acquedotti hanno dell'acqua che viene controllata in misura maggiore rispetto alle acque minerali, quindi ha una qualità maggiore, no? Allora mi chiedo, in relazione a questo, se questa quantità di 10 microgrammi nelle acque pubbliche si riscontra anche nelle acque minerali, e in ogni caso come si lega questo discorso alla lotta per l'acqua pubblica? Allora, guarda che quando ACEA è intervenuta alla gestione dei servizi idrici qua nei castelli, ha firmato una convenzione in cui diceva che si impegnava a verificare la qualità dell'acqua e che non avrebbe accettato, per esempio, pozzi privati, per esempio, che non avessero una buona qualità dell'acqua, e questo regolarmente non è avvenuto. La gestione ACEA qui nei Castelli Romani dal 2007 sostanzialmente non ha modificato minimamente la situazione, anzi l'ha aggravata. I dati che noi abbiamo potuto verificare dimostrano come la concentrazione di arsenico è andata aumentando nel tempo, ma per un motivo molto semplice, e il motivo è che nella misura in cui si va ad agire sempre più in profondità nelle falde acquifere, è chiaro che si sprigiona sempre più arsenico, e questo avviene anche perché c'è la concomitanza di un allargamento della popolazione dei Castelli Romani, che è andata moltiplicandosi nel tempo, e quindi è chiaro che aumentando le esigenze di acqua si deve scavare sempre più in profondità. La CEA si era impegnata a tutta una serie di opere in base alle quali aveva ottenuto le deroghe, oltretutto compresa la installazione di potabilizzatori, ma questo non è avvenuto, o è avvenuto in misura minima. Tant'è vero, ripeto, che la concentrazione di arsenico è andata aumentando. Senti, anch'io una domanda da farti. Il gestore è anche quello che controlla se stesso, ovvero da quello che ho letto la CEA aveva fornito dei dati molto rassicuranti sulla concentrazione di arsenico, ma in questi casi non dovrebbe essere valido solo il prelievo di una, non so, di una ASL, di un ente terzo? Sai, questa è una nota un po' dolente, nel senso che è vero, La ASL ha l'obbligo di fare i prelievi e di controllare la qualità dell'acqua. In realtà di questi controlli non dà mai sufficiente pubblicità. Noi per esempio come comitato abbiamo tallonato la ASL per ottenere i dati che ci spettano oltretutto, e li abbiamo ottenuti sempre con molta ma molta difficoltà. Di fatto le stesse pressioni fatte sul sindaco non hanno sortito risultati migliori. Le prime analisi ufficiali che siamo riusciti ad ottenere sono state nel luglio del 2010, dopo due anni di insistenze. Quindi la ASL non si comporta in realtà molto meglio della CEA o del sindaco. Mi sembrano tutte e tre molto vincolati fra di loro dalla paura della rabbia della gente e dei problemi da affrontare. Quindi si alleano nel tentare di tenere le cose sotto silenzio. Tant'è vero che la questione dell'arsenico non è certo nata per loro iniziativa, cioè la notizia è venuta a galla per iniziativa nostra, del nostro comitato e dei comitati a noi vicini. Parlo del comitato acqua pubblica di Aprilia, per esempio. Ci siamo attivati in questa sede, abbiamo scovato i documenti e li abbiamo resi noti alla stampa, e questo ha fatto scoppiare il problema. Loro stavano estremamente abbottonati, non hanno detto nulla. L'arsenico a Velletri e zone limitrofe c'è ovviamente da sempre ed è conosciuto dal 2004, perché esistono documenti in questo senso, ma nessuno ha mai fatto nulla. Si sono arrampicati sulla questione delle deroghe e stanno abbarbicati alle deroghe senza preoccuparsi della salute dei propri cittadini. Adesso sperano, si inventano una deroga a 20 pur di rosicchiare qualche cosa, ma il dato di fatto è che qui l'arsenico in molte fontane, in molti acquedotti, in molti rubinetti arriva fino a 50 microgrammi e li supera. Abbiamo trovato punte di 76 e così via. Mirella, solo una domanda per capire, perché appunto abbiamo detto veloce perché siamo quasi in chiusura. E l'Unione Europea non ha concesso deroghe, ma quali motivazioni ha adotto per diciamo appunto spiegare il perché, il diniego a quest'ulteriore deroga? Allora, il documento dell'Unione Europea non è molto esplicito, ma rifiuta la deroga ritenendo non sufficienti le motivazioni adotte dal richiedente, e le motivazioni stanno chiaramente negli investimenti. Certo. Il piano di ACEA, per esempio, di rientro, il piano di investimenti che aveva promesso già dalla deroga precedente per l'arsenico, erano una serie di interventi che non sono stati assolutamente ultimati entro il 2009, quindi non è stata mantenuta quella promessa. Non parliamo poi della comunicazione alla popolazione, nulla è stato detto alla popolazione sui danni e i pericoli che derivavano dall'uso dell'acqua potabile e così via. Quindi l'Unione Europea, per concedere questa ulteriore deroga molto pericolosa, ripeto, perché con questa arriviamo a 9 anni di sottoposizione a rischio arsenico, avrebbe dovuto vedere risultati concreti dei precedenti 6 anni. Questi risultati non ci sono stati. La concentrazione arsenico è aumentata, gli investimenti sono stati fatti molto parzialmente e quindi la situazione è rimasta immutata. Alla luce di questi fatti, evidentemente l'Unione Europea non poteva concedere ulteriori deroghe. Certo. Va bene Mirella, poi torneremo sicuramente in seguito anche a seguire questa vicenda, che veramente è emblematica rispetto a quello che vuol dire la gestione dell'acqua potabile in Italia ad oggi. Ti ringraziamo e auguriamo a tutti voi del Comitato di Velletri buon lavoro e a risentirci presto. Grazie, buonasera a tutti. Sì, effettivamente diciamo, è emblematico queste ultime due storie che ci ha raccontato sia Luciano dalla Toscana rispetto alla, appunto, alle opere di fognatura non realizzate e al fatto che qui Acea, vicino Roma, non effettua gli investimenti e quindi le opere necessarie a sanare una situazione che va avanti appunto dal 2004. È emblematica del fatto di che cosa vuol dire la privatizzazione del servizio idrico, ossia bollette più care e quindi profitti più alti per i gestori e crollo degli investimenti e quindi una qualità del servizio che diciamo diminuisce di anno dopo anno. Un accenno alla disinformazia dell'altra parte. Loro continuano a dire fino al primo momento che questo referendum, questa mobilitazione praticamente non ha ragione di essere, perché chi ha mai privatizzato l'acqua? Loro dicono la proprietà dell'acqua rimane pubblica, è solo il gestore che viene affidato al libero mercato. Infatti questo poi è, appunto, è quello che viene smentito con i fatti nel momento appunto in cui abbiamo esempi come questo in cui è il gestore che non c'è, cioè, una storiella per esempio, è il gestore che decide tutto, è il gestore che decide tutto. Ma infatti c'è stata una storiella rispetto proprio a quelli che dovevano essere gli interventi fatti in emergenza praticamente dopo il diniego dell'Unione Europea, e il buon Zingaretti, presidente della provincia, che è presidente anche del lato, quindi del territorio all'interno del quale agisce Acea, aveva chiesto appunto ad Acea di mettere a disposizione come prestito, non come diciamo regalo, ai comuni 50 milioni di euro dei propri utili per sanare questa emergenza che appunto vedeva la salute delle persone messa in pericolo così fortemente. Beh, Acea gli ha detto: mi dispiace tanto, ma per noi la salute delle persone è secondaria agli utili, ai profitti. Noi quei soldi li dobbiamo dare ai nostri azionisti, mi dispiace tanto per chi si beve l'acqua all'arsenico, ma diciamo quelli sono soldi nostri e noi ce li siamo ben guadagnati sulla pelle degli altri. Ecco, speriamo che tutti ricordino bene queste frasi, queste parole, speriamo che sempre più persone se ne vengano a conoscenza per capire che appunto questa battaglia per l'acqua pubblica, veramente per l'acqua a gestione pubblica, è fondamentale per la salute e per la vita. Io ringrazio Paolo e Luca per il contributo e per la trasmissione di oggi. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, ancora con Entropia Massima. Parleremo ancora di lotte in altri ambiti, sempre però nel territorio del Lazio.